puntuali come sempre, 11:31 minuti che scoccano in questo momento. E chi mi crede se dico che è il 22 dicembre? E più che il secondo giorno d'inverno, sembrerebbe il secondo di primavera, anche se al termine del Jazz Live e della stagione 2023 ci troviamo con questi colori e calori. Colonna sonora, prima di mezzogiorno, al Jazz Live di Radio Città Fujiko, con doppio appuntamento alla chiusura del Torrione, e poi ci sposteremo con quello che invece avrà motivo di aggregazione più esteso a livello nazionale. Intanto do il buongiorno ad Alfredo Pasquali. Buongiorno e tanti auguri a te e famiglia. So grazie. Che ti piacciono gli auguri. Io ci tengo molto. Anche ai cugini auguri. Beh, a te e famiglia compreso, zii, no, non cugini. So, perché... È secondo grado ancora compreso negli auguri. Dipende dai rapporti familiari che si tengono, hai capito? Comunque auguri. Anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori per questo nostro imminente Natale che sta arrivando, e non solo, avremo anche lo stacco per le festività successive. Riprenderemo con la riapertura del Torrione e riprenderemo anche con quello che è una proposta live per tutti gli incontri a motivo jazz. Si chiude con doppio appuntamento invece carioca, sì, sarà un Natale ai tropici, visto anche le temperature. Ma d'altra parte so che tu c'hai delle song natalizie che sono molto brasiliere. Sì, e per me è molto brasiliera la base che proporrò. E che il Brasile a Natale è famoso. Noto, è notissimo. White Christmas, da resto anche da noi White Christmas. Ormai è come Brasilia. E quindi questo avrà incontro al Jazz Club di Ferrara, doppio, questa sera venerdì 22 dicembre con As Maddalenas, Cristina Renzetti e Tati Valle, che abbiamo già più volte incontrato qui al Jazz Live e non solo, anche colonna sonora all'interno del Breakfast Club. Entrambe alla voce, alla chitarra e percussioni troveranno motivo per augurare non solo un buon approccio al Natale, ma anche una qualità musicale che viene tra pop, tradizione brasiliana, quello che è un incontro con la musica italiana e il gusto che resta sempre comunque importante. È una serata che anticipa, come vi ho detto, lo stacco tra la prima parte e la seconda parte di stagione. Ho avuto modo di contattare Tati Valle, già amica di Radio Città Fujiko, per cui conoscere in motivo di approfondimento le modalità del concerto. Sentiamo questa conversazione che ho avuto poco fa con Tati Valle. Facciamo con As Maddalenas, quindi un duo, Cristina Renzetti alla voce, alla chitarra, alle percussioni, altrettanto Tati Valle, che già abbiamo conosciuto anche come Cristina in altri concerti, in questo caso a ridosso del Natale, il 22 dicembre, che è un venerdì, saranno sul palcoscenico del Torrione. Allora Tati, cosa ascolteremo del vostro repertorio? Qualcosa di nuovo da presentare? Sorprese? Intanto è già un piacere risentirti, però insomma ci puoi dire qualcosa di più? Grazie Milen, certo. Guarda, per noi questa è una ripartenza del tour di quest'anno, dove festeggiamo 10 anni di duo, dove abbiamo questo terzo album che si intitola proprio omonimo As Maddalenas. Noi abbiamo girato, iniziando da maggio, quando è uscito l'album 19 maggio, alla Casa del Jazz in quintetto. Invece adesso questo tour invernale prevede proprio il duo, ma non più con i nostri cavalli di battaglia, ma con un repertorio tutto originale, scritto da noi. Quindi noi siamo particolarmente emozionate a questo giro di portare sul palco in duo questi pezzi che sono nati in duo sempre, però sono stati registrati poi in quintetto con un super quintetto e direzione artistica di Ferruccio Spinetti. Ma noi insomma siamo un duo da 10 anni e ritroviamo sempre in qualche modo la nostra magia in maniera particolare, e abbiamo quella dinamica maddalenica che fa la differenza, insomma. È diventato un aggettivo, ma l'aspetto maddalenico mette sempre insieme Italia e Brasile. Esatto, cioè, è quello che distingue il nostro sound, no? Cioè, ci piace usare questo termine maddalenico, e quindi vi aspetto tutti venerdì al Torrione. Abbiamo anche dei progetti futuri, Tati? Guarda, adesso il nostro progetto è riuscire, a dire proprio la verità, riuscire a uscire un po' dall'Italia e portare questo disco magari anche fuori dell'Europa. Diciamo che questa sarebbe, se proprio dovessi scrivere un desiderio nella letterina di Babbo Natale per le Maddalenas, uscire un po' dal territorio sarebbe la cosa che più desideriamo in questo momento. Da-dum-da-da, ha-da, resto de nós. Porque como já diziam, não deu nem pra repartir. E amanheço com o que sobrou de mim, sem o que restou de nós. Porque como eu já dizia, não deu nem pra repartir. Gusto nella composizione, nella capacità di proporre anche il pop con una raffinatezza. Chiude in grande stile con doppia proposta carioca Cristina Renzetti e Tati Valle, entrambe chitarre e percussioni, oltre che questo approccio vocale. Niente, anche se ci siamo conosciuti a un concerto del grande Marcos Valle qua a Bologna, non è parente nonostante il cognome completamente identico, e oltretutto anche una vicinanza di proposta carioca che comprende anche una sorta di acid jazz, un soul, un discorso che è accattivante, oltre che, come ho detto, di raffinatezza e capacità in composizione. Con tale caratteristiche Cristina Renzetti, anche lei allo stesso modo, porta qualità che vanno perfettamente ad abbinarsi alla struttura di Tati Valle. Allora Astro Gilberto, Ellis Regina, a me vengono in mente cantanti carioca che con differenti realtà musicali hanno allo stesso modo avuto grandissimo successo nella ed è una lingua jazz. Quella brasiliera o lusitana che ti seduce. Cioè, già detto tutto, Circo Boarque, Caetano Circo Veloso, ce n'è. Che tradizione, incredibile. Sì, veramente la più diffusa da quello che ho. Io sono un grande appassionato di musica brasiliana, è una grandissima tradizione che dopo l'aspetto americano, statunitense e afroamericano, chiaramente è quella più diffusa nel mondo. Ma non sei l'unico ad essere appassionato. Credo. Per esempio Federico Mutti, che è il presidente del Festival di Bologna, è un appassionatissimo in musica brasileira. Anche una capacità di sedurre, una coinvolgere, e anche è bella. Noi procediamo nella nostra conversazione con Tati Valle e appunto sorprese ce ne saranno. Intanto facciamo gli auguri a Cristina Renzetti, perché mi sa che quest'oggi compie gli anni, In questo disco hai detto, o anche in quello che presenterete, ci saranno solo composizioni originali vostre o ci saranno anche interpretazioni? In questo disco, che è fatto principalmente di pezzi nostri, ci sono anche due cover che abbiamo scelto proprio con il lanternino. Una è Crocodilo, che è la nostra versione in portoghese di Bersani di Crocodilo, e poi c'è anche Pigro di Pino Daniele. Oddio, c'è anche un terzo, cioè, perché c'è anche Bayon de Lacan, che è un pezzo di Ginga, insomma è il terzo album e non potevamo non fare un pezzo di Ginga. Quindi ci sono un po' di tradizioni che anche senza volere si replicano in questi album. E poi Pino, diciamo che ha una grande passione sia mia che di Cristina. E noi abbiamo cantato in italiano, ma nel concerto abbiamo una sorpresina. Tutto ciò capita a ridosso del Natale, quindi avrete un palcoscenico particolare, no? Non siete così vestiti da Babbo Natale o determinate cover natalizie, no? No. No, diciamo che noi abbiamo avuto, guarda, per la prima volta abbiamo avuto proprio una scenografia, un figurino quest'anno, però è tutta una scenografia più estiva, quindi non credo che faremo qualcosa di natalizio, né vestite da Babbo Natale, ma e neanche dalle sonorità, neanche da, insomma, dalla scenografia estiva. Però festeggeremo anche Cristina, che compirà gli anni, insomma, cantando. Auguri. Beh, che, be- sì. Che bello auspicio, un bel regalo. Hai visto? Sì, devo dire che anche questo ci capita spesso, nel mio compleanno, nel suo capita, cioè nel suo Dio, forse la prima volta che saliamo sul palco insieme. Vedi, questo 2023 ha portato anche questo. Certo, beh, un bel regalo comunque. Poi il Torrione è sempre bello, insomma. Infatti è un posto magico, sì, a cui io sono molto legata, perché devo dire che ho avuto questa avventura di fare un biennio lì, quindi Ferrara, tutto il, lo staff del Torrione, che sono già insomma ormai degli amici, colleghi di vecchia data, però è un luogo veramente che produce tantissima musica, tanta magia, è veramente un onore poter esibirsi lì. E quindi l'appuntamento è per venerdì 22 a Smaddalenas, Cristina Renzetti e Tati Valle. Tati, sempre un piacere fare conversazione con te, ma è anche un piacere ovviamente ascoltare la tua musica, e questo sarà per l'inizio del weekend di questo fine settimana. Grazie, grazie a presto. Grazie. Chuva boa do Nordeste, quando cai tudo se anima, vem do céu em cor de imã, quando cai tudo se anima, chuva boa do Nordeste. Concerto, e sto proponendo alcuni brani che saranno dal Torrione questa sera, dal duo Renzetti Valle, per l'appuntamento Carioca che non finisce qui. Il brano è Siranda de Sciuva, e oltretutto pensavo, intanto che ascoltavo diversi motivi di dialogo, e non solo contati per questo, vista la passione con la musica brasiliana. Il Brasile è un subcontinente, è enorme, è una federazione, tra l'altro, come stato, Aggiungiamo che in ogni parte c'è una propria proposta musicale che ha una sua tradizione, dalla bossa nova alla samba, alla ginga e tante altre. Quindi veramente un'estensione e anche un gusto, una ricerca che poi ovviamente viene il coro, il choro, adesso ho pronunciato per meglio dire, è veramente una tradizione incredibile. E adesso la foresta amazzonica la divide dal resto dell'America Latina, non solo, cioè è anche la lingua, tutto è. In Brasile è un'altra, un'altra cosa, insomma, rispetto all'Argentina, al Perù, all'Ecuador, eccetera. Ma io ti fa una domanda di quella fredda sorpresa, un po' tradimento. No, a parte scherzi, sei stata tu la nostra vedetta privilegiata al Torrione. In questa prima parte della stagione, cos'è che ti ha colpito tra i concerti? Allora, tutti belli, se non vogliamo denigrare nessuno, ma proprio quelli che ti sono rimasti? Allora, l'ultimo a cui ho assistito con questo pianista che ha portato Alexander Hawkins Trio, veramente è il concerto che, ammetto, vorrei sempre vedere, perché mi ha incuriosito molto. Anche, ammetto, non si finisce mai di imparare, no Alfredo? Certo. Anche per la mia crescita musicale, quindi nell'ascolto e nell'attenzione, per cui Alexander Hawkins non delude mai, un musicista notevolissimo, infatti, che è stato come ho detto, per, dico, alzare l'asticella, no? Dopodiché aggiungo il piano solo di Sullivan Fortner all'interno del Bologna Jazz Festival. Pur essendo un piano solo, è stato di una capacità tecnica incredibile, senza lasciare a desiderare nulla per quanto riguarda il gusto. Una trombettista che ha portato musica d'avanguardia, Steph Richards, sì. Anche lei, curiosità, è allo stesso modo come Alexander Hawkins, allenare per capire anche i motivi di ascolto e le diversificazioni in queste proposte. E poi, se vogliamo, tanti altri, avere a distanza di un metro, aver assistito al concerto di Greg Osby, insomma, questo è indiscutibile. Ovvio, come hai detto tu, è stata una stagione, veramente un inizio di stagione travolgente, permettetemi questo aggettivo superlativo. Anche, non so, Fabrizio Bosso, per quanto riguarda l'interpretazione che nel cuor mi sta di Stevie Wonder, per cui, sì, ci siamo. Ci meritano la vacanza per poi riprendere, e noi con loro li seguiremo passo passo, che sì, è la seconda con parte. La ripresa del Torrione si va anche con la seconda parte. Alfredo, ti ringrazio per questa domanda. Sì. Allora, auguri anche alla famiglia. Certo, no? Ci sta sempre bene. Certo. Dopo ho anch'io alcune cosine da precisare per quanto riguarda la seconda mezz'ora assieme. E invece sabato 23 dicembre restiamo carioca con Daniella Firpo, anche lei già conosciuta, assieme a Daniele Santimone, Tiziano Negrello, Roberto Red Rossi e il progetto Itaprica. Anche qui ho avuto modo di fare conversazione con Daniella, sempre un piacere poi risentire le amiche che ogni tanto, per impegni ovviamente di concerti, tournée, sì, sta un pochettino lontani, poi ci si ritrova ed è sempre un piacere, soprattutto in queste circostanze. Siamo con Daniella Firpo, ben ritrovata, sempre un piacere sentirti, ciao e buongiorno. Ciao William, tutto il piacere è mio, questa chiacchierata con te è sempre molto piena di gioia. Ascolta, beh, cosa sarà proposto Daniella per la serata? È una serata speciale anche e soprattutto per me, perché è un progetto su cui sto lavorando da più o meno così un annetto, da quando ho iniziato a leggere, rileggere questo libro di Jorge Amado, che è il grande scrittore baiano, che praticamente è quello che ha reso la Baia così conosciuta in tutto il mondo, con i suoi miti, no? La sua caratteristica di Baia coloniale a livello di architettura. Ha descritto anche molto questo modo di essere del popolo baiano, poi dopo da lui sono venuti, dai suoi libri sono stati fatti film, Donna Sol e Seus Maridos, Gabriela Cravo e Canela. E questo libro che ho letto così innocentemente l'estate scorsa, sempre che leggevo mi venivano in mente questi scenari pazzeschi, perché lui scrive in un modo, con un lirismo e con una musicalità nel suo testo, nelle sue parole, che alcuni capitoli mi davano veramente un'ispirazione musicale. E da lì parte l'idea di scrivere per una storia, per un paesaggio, per un popolo. Non scrivere, diciamo, per me stessa, per le mie questioni personali, come di solito facevo, gli artisti fanno molto, no? Allora sono andate avanti così, però Itaparica, questo titolo che viene fuori, è perché appunto dopo, capendo che questa isola dove sono cresciuta, che si chiama Itaparica, è parte comunque del libro di Jorge Amado Marmoto, c'è sempre Itaparica di mezzo, quindi ho pensato che questo titolo era anche modo di parlare di questa isola dentro della storia di Jorge Amado, ma anche quest'isola come simbolo del popolo baiano, perché lì è dove nasce il Brasile, è stato uno dei primi posti dove sono arrivati il portoghese, cioè il Brasile già esisteva, già i veri diciamo, padroni, proprietari del Brasile, se si può dire così, erano gli indigeni che lì vivevano, però Itaparica poi dopo diventa questo mix di questo calderone di popoli che arrivano, i portoghesi, poi dopo il traffico di schiavi, quindi tra drammi e nuove formazioni linguistiche popolari di vita, sì. Su questa isola nasce il Brasile, diciamo così, da lì in poi, hai capito? Sì. Lá embaixo os tambores tocam, tumbados gritos de amor. É o negro que canta e baila, e bate o pé, dança com tambor. Repiques e gritos em cio, na pátria também gritou. Se sofre quando se chora, porém se baila com o tambor. Tambor, tambor, das cores e livres reunidos, hermanos del tambor, doutores que se calem e venham para o fogão e aprendam com o irmão e aprendam com o tambor. Tambor, tambor, mais que uma batida. Comunque, sì, certo, diciamo in maniera molto sbrigativa, no? La musica brasiliana, ma sentite come gli approcci sono sensibilmente diversi. La musica da Londrina, nello stato del Paraná, in Brasile, di Tati Valle, che è più vicina, se vogliamo, a un approccio con la bossa, se posso permettermi questa immediatezza. Mentre invece la musica baiana, che ha una ritmica più incisiva, è quella portata da Daniela Firpo e che stiamo ascoltando, è anche un bel motivo per tradurre la sensazione diversificata nelle due diverse tra le tante espressioni musicali brasiliane. Sì, nascendo poi come storicamente proveniendo dall'Africa, questi stimoli di musica anche sincopata secondo la tradizione che c'era nella zona angolana dello schiavismo, sì, che importò poi naturalmente nel nuovo mondo questi, anche questi modi di cantare con le varie trasformazioni del tempo. Ecco, vediamo che quanto capiamo quanto Gilberto Stanghetti abbiamo dato il punto d'incontro, perché la musica brasilera ha questa musica sincopata con diversi eventi, possibilità di appoggio del canto, sì, della, del solismo anche e dell'armonia, quindi, dell'armonia, certo. Quindi è come il jazz, in qualche modo è come dire mutevole, è difficilmente riproducibile una volta uguale a quella, insomma è una cosa che si inventa, molto work in progress, anche se poi chiaramente i musicisti hanno loro stilemi eccetera, e loro approcci, eccetera. Sì. E comunque di Bahia a me piace tutto, bellissima città, okay. Meno che una cosa, la cucina. Immaginavo. Che è blasonatissima in Brasile, a me ha fatto veramente schifo. Ah, beh, è troppo piccante. No, è unta. Ah, eccessivamente condita. Okay. Beh, essere alle prese con questo incontro tra letteratura e musica, vedo che ti ha emozionato anche tanto. Perché, molto. Sento dalle tue parole e stai presentando con grande coinvolgimento. Chi ci sarà con te al Torrione? Ci saranno questi musicisti meravigliosi con cui diciamo fatto tante cose da vari anni sempre, diciamo da quando sono qua, che è Roberto Rossi alla batteria e percussioni, Daniele Santimone alla chitarra, Tiziano Negrello al contrabbasso, e poi ci saranno alcune sorpresine che adesso non dico di alcuni ospiti che naturalmente saranno lì, ho saputo recentemente, ho detto allora andiamo a fare qualcosa insieme, in qualche canzone ci sarà qualche ospite. Eh sì, perché poi è anche a ridosso della ricorrenza natalizia. Ma infatti sono anche contenta con questa cosa, che sarà il concerto di chiusura, non avevo ancora così cantato in una situazione di come se fosse una veramente una festa, no? Una celebrazione della vita così tutti insieme in quel posto meraviglioso che è il Jazz Club, e cantando queste canzoni che sicuramente arriveranno alle persone, perché è una storia, non è solo la canzone in sé, ma anche la storia che c'è dietro, e chi è lì sicuramente è affascinato, no? Dal Brasile. Sì, sai che è una mia grandissima passione la musica brasiliana, per cui è come questo non lo posso assolutamente perdere, come penso anche ascoltatrici e ascoltatori dei 103.1. Comunque ne avremo da raccontare, da raccontarci e soprattutto da ascoltare. Intanto io ti ringrazio tantissimo per questa nostra conversazione e l'appuntamento è a Ferrara per la giornata di sabato. Grazie di cuore e a presto. Grazie William, è stato un piacere, un abbraccio e ci vediamo lì sabato 23. Ciao. oltretutto l'incontro letterario con Jorge Amado, dalle parole di Daniela Firpo. Stiamo ascoltando brani dal disco Ossa Vida Esse Amor, che magari sarà anche riproposto per la giornata di domani in conclusione al Torrione. A brevissimo lo stacco pubblicitario, poi Alfredo andiamo al centro. Sì, perché noi come il quotidiano, il centro. Non pensate che andiamo mai in vacanza, la redazione e anche in vacanza. Siamo sempre come i soldati sull'attenti, quindi avremo un flash che di fatto riguarderà direttamente il festival di Natale in Jazz all'Aquila, che poi sono musicisti che si trasferiscono anche a Orvieto per Jazz Winter, perché è sempre Perugia World Jazz che in qualche modo ha questa gestione, che l'associazione Baratelli dell'Aquila ha preso meritoriamente da anni e fa e porta il jazz all'Aquila. Questo noi, nella seconda parte, nella seconda parte. A tra poco.